339. Braccioline ripiene con carciofi. Ai carciofi levate tutte le foglie dure e tagliateli in 4-5 spicchi. Prendete una fetta di prosciutto grasso e magro, tritatelo fine fine, mescolatelo con un poco di burro e con questo composto spalmate gli spicchi dei carciofi. Battete e spianate le braccioline, che possono essere di vitella o di manzo, conditele con sale e pepe e ponete in mezzo a ciascuna 2 o 3 dei detti spicchi, poi avvolgetele e legatele in croce con un filo. Fate un battutino con poca cipolla, mettetelo in una cazzaruola con burro e olio e quando la cipolla sarà ben rosolata, collocateci le braccioline e conditele ancora con sale e pepe. Rosolate che siano, tiratele a cottura con sugo di pomodoro o conserva sciolta nell'acqua. E quando le mandate in tavola, scioglietele dal filo.